Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Le gocce di pioggia si aggrappavano disperatamente agli aghi di pino e Beloved non riusciva a togliere gli occhi di dosso a Seth. Sia che si chinasse a liberare la valvola di tiraggio dalla cenere o a spezzare i legnetti per il fuoco, Beloved si mangiava Seth con gli occhi, la leccava, la assaporava. Gironzolava lì attorno come fosse una di famiglia, non abbandonando mai la stanza dove si trovava lei, a meno che non fosse necessario o le venisse chiesto esplicitamente. Si alzava presto, quando era ancora buio, per essere giù in cucina in attesa che Seth scendesse a impastare il pane alla buona e a infornarlo prima di uscire per andare a lavorare. Al lume della lampada e sopra le fiamme del forno acceso, le loro ombre si incrociavano e si scontravano sul soffitto come due spade nere. Quando Seth ritornava, alle 2, lei era ad aspettarla alla finestra o sulla soglia. Poi passò alla veranda, alle scale, al viottolo, alla strada, finché, piegandosi all'abitudine, Beloved cominciò ogni giorno a spingersi sempre un poco più avanti, lungo Bluestone Road, per poi tornare assieme al 124. Era come se ogni pomeriggio ricominciasse a dubitare del ritorno della donna. Seth si sentiva lusingata da quella devozione calma, manifesta. La stessa adorazione da parte di sua figlia, se fosse mai presentata, l'avrebbe seccata. Sarebbe rabbrividita alla sola idea di aver educato una bambina in modo così ridicolo. Ma la compagnia di quella dolce ospite, pur così strana, le faceva piacere, proprio come un allievo zelante compiace il suo maestro. Venne il periodo in cui bisognava accendere le lampade di buon'ora, perché la sera arrivava sempre più presto. Seth andava a lavorare quando era buio e al buio Paul D rientrava a casa. Una di quelle sere, fredde e scure, Seth tagliò una rapa in quattro e la mise a cuocere in umido. Diede a Denver mezzo chilo di piselli da selezionare e da lasciare a mollo fino al giorno dopo. Poi si sedette per riposarsi. Il calore della stufa la induceva al sonno. Stava quasi per addormentarsi quando sentì che Beloved la carezzava. Una carezza leggera, come una piuma, eppure carica di desiderio. Seth si mosse e si guardò attorno. Prima guardò la mano di Beloved, morbida, dalla pelle intatta, posata sulla sua spalla. Poi la guardò negli occhi. Il desiderio che vi scorse era sconfinato, una richiesta a malapena controllata. Seth batté affettuosamente la mano sulle dita di Beloved e lanciò uno sguardo a Denver, i cui occhi però erano intenti al lavoro di cernita dei piselli. «Dove sono i tuoi diamanti?» disse Beloved, scrutando il volto di Seth. «Diamanti? E che ci faccio io coi diamanti?» «Alle orecchie. Magari. Una volta li avevo di cristallo, un regalo della signora dove lavoravo. Racconta», disse Beloved, con un largo sorriso. «Raccontami dei tuoi diamanti». Divenne un modo di nutrirla. Come Denver aveva scoperto il delizioso effetto che provocavano i dolci su Beloved e vi aveva fatto affidamento, così Seth si accorse della profonda gioia che la ragazza ricavava dai suoi racconti. La cosa stupiva Seth, tanto quanto Beloved ne era compiaciuta, perché ogni accenno alla sua vita passata le faceva male. In quella vita tutto dava dolore o era andato perduto. Lei e Baby Sachs, senza neppure avere bisogno di parlarne, si erano trovate d'accordo sul fatto che non c'erano parole per descriverlo. Alle domande di Denver, Seth dava sempre delle risposte brevi, oppure divagava fornendo delle fantasticherie incomplete. Perfino con Paul D., con cui aveva condiviso in parte quello stesso passato e con cui poteva parlarne, perlomeno con una certa tranquillità, il dolore era sempre lì, come nel punto delicato all'angolo della bocca, dove prima c'era il morso. Ma non appena cominciò a raccontare dei suoi orecchini, si accorse che voleva farlo, che le faceva piacere. Forse era l'estraneità di Beloved a quei fatti, o forse la sua sete di ascoltare. A ogni modo, per lei era un piacere inatteso. Sopra il picchiettio dei piselli, che ricadevano dopo essere stati scelti, e l'acre odore della rapa che cuoceva, Seth le spiegò la storia dei cristalli che un tempo portava alle orecchie. «Me li ha dati quella signora dove lavoravo, quando mi sono sposata. La cosa che a quel tempo e in quel posto si poteva chiamare matrimonio. Credo che avesse capito com'ero rimasta male quando avevo scoperto che sarebbero mancati sia il prete sia la cerimonia. Non c'era niente. Pensavo che ci dovesse essere qualcosa. Qualcosa per poter dire che era giusto e sacrosanto. Non volevo che tutto si riducesse a sdraiarsi su quella specie di pagliericcio pieno di loppe o a portare il mio vaso da notte nella sua baracca. Pensavo che ci dovesse essere una cerimonia, un ballo, magari, un garofano screziato nei capelli». Seth sorrise. «Non avevo mai visto un matrimonio, però avevo visto l'abito da sposa di Mrs. Garner nel guardaroba e la sentivo che raccontava sempre di come era stato. Un chilo di uva passa nel dolce, diceva, e quattro pecore sane la gente mangiava ancora il giorno dopo. Era così che lo volevo, io. Un pranzo, magari dove io, Hall e tutti gli uomini di Sweet Home ci potessimo sedere a mangiare qualcosa di speciale, invitare altra gente di colore, farla venire da Covington o da High Trees, quei posti dove Sixo andava sempre di nascosto. E invece, niente. Ci hanno detto che se volevamo essere marito e moglie, allora andava bene e basta. Basta così. Beh, alla fine ho deciso che almeno dovevo avere un vestito che non fosse la tela di sacco che mi mettevo per lavorare. Così ho cominciato a rubare della stoffa e ho messo assieme un vestito che non ti crederesti. La parte di sopra era fatta con due federe, prese dalla cesta del rammendo di Mrs. Garner. Il davanti della gonna era una mantellina da toletta con un buco nel centro, dove era caduta una candela, e una delle vecchie fasce che usavamo di solito per provare il ferro da stiro. Bene, il di dietro è stato il problema più difficile da risolvere. A quanto pareva, non c'era cosa che potessi prendere senza che si accorgessero subito della mancanza, dato che dopo dovevo scucire tutto e rimettere i pezzi al loro posto. Bene. Hall era paziente, aspettava che finissi. Sapeva che senza vestito non c'era niente da fare. Alla fine ho preso la retina per le zanzare appesa a un chiodo del granaio. La usavamo per filtrare la gelatina. L'ho messa a bagno e l'ho lavata meglio che potevo per farci il di dietro della gonna. Ed eccomi pronta, con l'abito da sposa più brutto che ti possa immaginare. Era solo per il mio scialle di lana, se non ci facevo la figura di un fantasma ambulante. Avevo solo 14 anni. Per quello ero così orgogliosa di me. A ogni modo, Mrs. Garner mi deve avere visto con quel vestito. Pensavo di essere furba. E invece lei sapeva tutto, perfino della nostra luna di miele quando io e Hall siamo andati nel campo di grano. È lì che siamo andati la prima volta. Era un sabato pomeriggio. Quel giorno Hall si è dato malato. Così non doveva andare a lavorare in città. Di solito lavorava sabato e domenica per pagare la libertà di Baby Sachs. Invece lui si è dato malato. Io ho messo il mio vestito e siamo entrati nel campo di grano, tenendoci per mano. Ricordo ancora il profumo delle pannocchie che Sixo e Paul arrostivano laggiù. Il giorno dopo, Mrs. Garner m'ha fatto segno con un dito e m'ha portato di sopra in camera sua. Ha aperto una cassa di legno e ha tirato fuori un paio d'orecchini di cristallo. Mi ha detto: «Voglio darti questi, Seth». «Sì, signora», ho risposto io. «Hai le orecchie bucate?» mi ha chiesto. «No, signora», ho detto io. «Beh, allora fattele bucare», ha detto lei. «Così puoi metterteli. Voglio darteli e voglio che tu e Hall siate felici». Io l'ho ringraziata, però non li ho mai messi finché non sono andata via di là. Il giorno dopo che sono arrivata in questa casa, Baby Sucks ha sciolto il nodo della mia sottoveste e li ha tirati fuori. Io stavo seduta qui, vicino alla stufa, con Denver in braccio, e mi sono lasciata bucare le orecchie. Così ho potuto metterli. «Non ti ho mai vista con gli orecchini», disse Denver. «Dove sono adesso?» «Spariti», rispose Seth, «molto tempo fa». E non disse altro. Fino al giorno seguente, quando tutte e tre rientrarono di corsa in casa, sfidando il vento con le lenzuola e le sottovesti bagnate per la pioggia. Ansimando, ridendo, stesero il bucato ad asciugare sulle sedie e sul tavolo. Beloved si versò dell'acqua dal secchio e si mise a osservare Seth, la quale strofinava i capelli di Denver con un telo di spugna. «Forse è meglio se sciogliamo la treccia, hm?» chiese Seth. «No, no, domani!» Denver, al solo pensiero dei denti sottili del pettine che le tiravano i capelli, si rannicchiò tutta in avanti. «Mai rimandare a domani quello che puoi fare oggi!» disse Seth. «Ma fa male!» replicò Denver. «Pettinali tutti i giorni e non ti farà più male!» «Ai!» «La tua donna non te li pettina mai, i capelli?» chiese Beloved. Seth e Denver alzarono lo sguardo verso di lei. Dopo 2 settimane ancora non si erano abituati a quella sua voce roca e al canto che sembrava nascondersi dietro. Una voce quasi musicale, con una cadenza diversa dalla loro. «La tua donna non ti pettina mai i capelli?» era chiaramente una domanda rivolta a Seth, poiché Beloved stava guardando proprio lei. «La mia donna? Vuoi dire mia madre?» «Oh, se l'ha fatto, non mi ricordo. L'ho vista solo qualche volta nei campi e una volta mentre tinteggiava le stoffe color indaco. Quando mi svegliavo la mattina era già in fila con gli altri. Se c'era la luna ne approfittavano per lavorare. La domenica dormiva come un sasso. Forse mi ha allattato per 2 o 3 settimane. È così che facevano anche le altre. Poi è ritornata a lavorare nella risaia e io ho preso il latte da un'altra donna che lo faceva come lavoro. Perciò, per rispondere alla tua domanda, no, credo di no. Non mi ha mai pettinato né altro. A quanto ricordo, il più delle volte la notte nemmeno dormivamo nella stessa baracca. Troppo lontana dal posto della dunata, credo. Sì, una cosa l'ha fatta. Mi ha preso e mi ha portato sul retro dell'affumicatoio. Là si è aperta il vestito davanti, si è alzata il seno per farmi vedere cosa c'era sotto. Lì, proprio sulla costola, aveva un cerchio e una croce, marchiati a fuoco proprio sulla pelle. Mi ha detto: «La tua signora è questa qua, questa qua». E mi ha fatto vedere il marchio col dito. «Adesso sono l'unica che ha ancora questo marchio, gli altri sono morti. Se per caso mi capita qualcosa e non mi riconosci dalla faccia, mi puoi riconoscere da questo marchio». Mi ha fatto così paura. Riuscivo solo a pensare quanto doveva essere importante e quanto volevo essere capace di rispondere qualcosa di importante. Ma non riuscivo a pensare a niente e così ho detto quello che pensavo. «Sì, signora», ho detto, «ma tu come fai a riconoscermi? Come fai a riconoscermi? Marchia anche me!» ho detto. «Marchia anche me con quel marchio lì!» Seth rise piano. «E l'ha fatto?» chiese Denver. Mi ha dato uno schiaffo. «Come mai?» «Allora non capivo perché, finché non l'ho avuto anch'io, il mio marchio». «Che fine ha fatto?» «Impiccata. Quando l'hanno tirata giù nessuno poteva più dire se aveva un cerchio con la croce o no. Io meno che mai, anche se avevo guardato». Seth raccolse i capelli rimasti attaccati al pettine e allungandosi all'indietro li gettò nel fuoco. Esplosero in tante stelle e l'odore che si creò irritò le donne. «Gesù mio!» disse Seth e s'alzò così bruscamente che il pettine che aveva lasciato nei capelli di Denver cadde per terra. «Signora! Che cos'hai, signora?» Seth raggiunse una sedia e, preso un lenzuolo, lo stese quel tanto a cui potevano arrivare le sue braccia. Poi lo piegò, lo ripiegò e lo ripiegò ancora su se stesso. Ne prese un altro. Non ce n'erano di completamente asciutti. Piegarli, però, la faceva sentir meglio. Perciò non voleva smettere. Doveva fare qualcosa con le mani perché ora ricordava qualcosa che aveva dimenticato di sapere. Qualcosa di vergognoso, di personale, che le era scivolato in una fessura della mente e s'era depositato lì, dietro lo schiaffo e la croce racchiusa nel cerchio. «Perché hanno impiccato la tua signora?» chiese Denver. Questa era la prima volta in assoluto che sentiva parlare della madre di sua madre. Baby Sachs era l'unica nonna che conosceva. «Non l'ho mai saputo. Ne hanno impiccati un sacco», rispose Seth. Però ciò che ora ricordava in modo sempre più chiaro, mentre piegava e ripiegava la biancheria umida, era quando la donna di nome Nan l'aveva presa per mano e l'aveva tirata via con uno strattone da quel mucchio di cadaveri, prima che potesse scoprire il marchio. Nan era la persona che conosceva meglio. Le stava vicino tutto il giorno, allattava i bambini, cucinava e aveva un braccio buono e metà dell'altro. E usava delle parole diverse, parole che Seth allora capiva, ma adesso non era più in grado né di ricordare né di ripetere. Pensava che fosse quello il motivo per cui ricordava così poco di quanto c'era stato prima di Sweet Home, tranne i canti e i balli e il fatto che ci fosse tanta gente. Seth aveva dimenticato quello che Nan le aveva raccontato, oltre alla lingua in cui glielo aveva raccontato. La stessa lingua parlata dalla sua signora e che ora era persa per sempre. Il messaggio però era quello, era lì ed era stato sempre lì. Stringendosi al petto le bianche lenzuola umide, ora estraeva un senso da un codice che non era più in grado di capire. Era sera, Nan la teneva con il braccio buono, agitando nell'aria il moncherino dell'altro. Dico a te, piccola Seth. E così fece. Le disse che lei e la madre di Seth erano venute insieme per mare. La ciurma aveva approfittato parecchie volte di loro. Li ha buttati via tutti. Ha tenuto solo te. Quello che aveva avuto dai marinai l'ha buttato via su un'isola. Gli altri che ha avuto dai bianchi, anche quelli li ha buttati via. Li ha buttati via, così, senza dargli un nome. A te ha dato il nome di quel nero. Lui l'aveva abbracciato. Con gli altri non l'aveva fatto. Mai, mai! Dico a te, piccola Seth. La piccola Seth allora non era rimasta impressionata. La Seth adulta ora sentiva della rabbia, ma non sapeva bene perché. La nostalgia struggente di Baby Sachs la travolse come un'ondata. Nella calma della risacca, Seth guardò le due ragazze sedute accanto alla stufa. Quella sua pensionante malaticcia e superficiale, quella sua figlia solitaria e irascibile. Le sembravano piccole, lontane. «Paul D sarà qui a momenti», disse. Denver tirò un sospiro di sollievo. Per un attimo, mentre sua madre se ne stava lì a ripiegare il bucato, perduta nei suoi pensieri, aveva stretto i denti, pregando che la cosa finisse. Denver odiava quando sua madre raccontava delle storie che non la riguardavano. Ed era quello il motivo per cui l'unica cosa di cui le chiedeva era Amy. Il resto era un mondo fulgido, potente, reso ancor più tale dalla sua assenza. Poiché lei non c'era, lo odiava e voleva che anche Beloved lo odiasse, benché non ci fosse da sperarci minimamente. Beloved approfittava di ogni occasione per porre delle strane domande a Seth e farla continuare a parlare. Denver aveva già notato quanto le piaceva sentir parlare Seth. Ora aveva notato qualcos'altro. Le domande che faceva Beloved: «Dove sono i tuoi diamanti? La tua donna non te li pettina mai i capelli?» E la domanda che lasciava più perplessi: «Parlami dei tuoi orecchini». Come faceva a saperlo?